sopportare questo male per paura di cadere. Sotto i piedi non lo so quanto vuoto troverò, deludendomi, oh Signore, ma coraggio non ne ho. Ora fuori sento che c'è rabbia in me, mi vuol volare via per dimostrare che l'uomo di domani c'è. Non ti deluderò, lo son già io di te. Scusami, oh padrone, mi hai ferito, sai. Questa notte senza stelle porta buio intorno a me. Troppi dubbi dentro me che offuscano il mio cuore. Una luce all'orizzonte mi chiama verso sé. Abusi nel passato, quante mie lacrime di gioia e di dolore, perché con oggi è nato l'uomo di domani. Grazie.